Molly era piuttosto costernata dalle offerte della cameriera che Mrs. Hamley aveva mandato ad aiutarla. Temo si aspettino che io sia molto elegante, continuava a pensare. Se è così, resteranno delusi, ecco. Vorrei solo che il mio abito di seta a quadri fosse pronto. Si guardò allo specchio con una certa ansia, per la prima volta in vita sua. Vide una figura esile e snella, che prometteva di diventare alta, una carnagione più scura che lattea, anche se in un paio d'anni avrebbe potuto acquisire quella sfumatura. Una massa di riccioli neri raccolti indietro con un nastro rosa. Dolci occhi grigi dalla forma oblunga, quasi a mandorla, ombreggiati sotto e sopra da nere ciglia ricurve. Non credo di essere bella, pensò allontanandosi dallo specchio, però non sono sicura. Lo sarebbe stata se invece di scrutarsi con tanta serietà avesse fatto uno dei suoi dolci e allegri sorrisi, mostrando il candore dei denti e l'avvenenza delle sue fossette. Trovò la via verso il salotto al piano inferiore con buon anticipo e poté guardarsi intorno e imparare a sentirsi a casa in quei nuovi ambienti. La stanza era lunga circa 45 piedi, un tempo lontano decorata con satin giallo. Abbondavano sedie alte con le gambe affusolate e tavoli Pembroke. Il tappeto aveva la stessa età delle tende ed era logoro in molti punti, in altri era coperto con dei bigelli. Piedistalli per le piante, grandi vasi di fiori, antiche porcellane e scrigni indiani conferivano alla stanza l'aspetto piacevole che di sicuro aveva. Inoltre c'erano cinque lunghe e alte finestre su di un lato che si affacciavano tutte sulle più graziose aiuole fiorite del parco, o di ciò che così veniva definito, dai colori brillanti e dalle forme geometriche che convergevano verso una meridiana posizionata al centro. Lo squire entrò all'improvviso, con i suoi abiti da giorno. Si fermò sulla porta, come sorpreso alla vista di una sconosciuta vestita di bianco che prendeva possesso del suo focolare. Poi, riavendosi d'un tratto, ma non prima che Molly iniziasse a sentire molto caldo, disse: Beh, che Dio benedica la mia anima, mi ero completamente dimenticato di voi. Siete Miss Gibson, la figlia di Gibson, è vero? Siete venuta a farci visita? Garantito che sono molto felice di vedervi, mia cara. A quel punto si erano incontrati al centro della stanza ed egli stringeva la mano di Molly con veemente amichevolezza, intesa a rimediare al fatto di non averla riconosciuta subito. Però, devo andare a cambiarmi, disse l'uomo, guardandosi le ghette sudice. Alla signora piace così. È una delle sue raffinatezze londinesi e alla fine ci ha costretto anche me. Ma è una cosa molto buona ed è giusto mettersi in ordine per stare in compagnia delle signore. Vostro padre si cambia per la cena, Miss Gibson? Non si fermò ad aspettare la risposta, ma corse via a occuparsi della propria toilette. Cenarono a un tavolo piccolo in una sala molto vasta. Vi erano solo pochi mobili e lo spazio era talmente ampio che Molly rimpiangeva la comodità della sala da pranzo di casa sua. Anzi, c'era da temere che prima che quella maestosa cena a Hamley Hall fosse conclusa, ella rimpiangesse perfino i tavoli e le sedie ammassati, la fretta nel consumare il pasto, la brusca informalità con cui tutti mangiavano il più velocemente possibile per poi ritornare al loro lavoro. Tentò di pensare che alle 6 tutti gli impegni del giorno sarebbero terminati e che le persone avrebbero potuto perdere tempo se avessero voluto. Misurò con lo sguardo la distanza dalla credenza al tavolo e provò pena per i servitori che dovevano portare le pietanze avanti e indietro. Ma allo stesso tempo quella cena le apparve una questione molto faticosa, prolungata secondo il desiderio dello squire, giacché Mrs. Hamley sembrava esausta. Ella mangiò anche meno di Molly e chiese che le fossero portati il ventaglio e la bottiglietta dei sali per tirarsi su, fino a che la tovaglia fu tolta e il dolce servito sul tavolo di mogano, lucido come uno specchio. Fino a quel momento lo squire era stato troppo occupato per parlare, se non per esprimere delle osservazioni improvvise inerenti alla tavola e a un paio di eccezionali interruzioni dell'usuale monotonia dei suoi giorni. Una monotonia nella quale egli trovava diletto, ma che per la moglie era talvolta oppressiva. Ora, tuttavia, sbucciando la sua arancia, l'uomo si rivolse a Molly. Domani dovrete fare questo per me, Miss Gibson. Lo faccio anche oggi, se volete, signore. No, Oggi vi tratterò come un ospite, con tutte le necessarie cerimonie. Domani vi manderò a compiere delle commissioni e vi chiamerò con il nome di battesimo. Ne sarò molto lieta, replicò Molly. Mi piacerebbe chiamarvi in modo meno formale di Miss Gibson, disse Mrs. Hamley. Il mio nome è Molly, è all'antica e sono stata battezzata Mary, ma papà piace Molly. Molto bene, rispettate le buone usanze del passato, mia cara. Beh, devo dire che Mary è più bello di Molly, è un nome quasi altrettanto antico, sottolineò Mrs. Hamley. Penso di sì, confermò Molly, abbassando la voce e chinando gli occhi, perché la mamma si chiamava Mary e io sono stata Molly quando lei era in vita. Ah, poverina, disse il vecchio Squire, senza accorgersi dei cenni della moglie, intesi a fargli cambiare discorso. Mi ricordo com'erano tutti dispiaciuti quando morì. Nessuno pensava che fosse così delicata. Aveva una carnagione così fresca, finché a un certo punto si è spenta, come si suol dire. Deve essere stato un colpo terribile per vostro padre, disse Mrs. Hamley, vedendo che Molly non sapeva cosa rispondere. Sì, fu così improvviso e così poco tempo dopo il matrimonio. Penso fossero quasi 4 anni, replicò Mrs. Hamley. E 4 anni è presto, è poco per una coppia che intende trascorrere insieme tutta la vita. Tutti pensavano che Gibson si sarebbe risposato. Shh, intimò Mrs. Hamley, notando dagli occhi e dal cambiamento del colore sul viso di Molly che per lei quell'idea era totalmente inaudita. Ma lo Squire non era un tipo facile da zittire. Beh, forse avrei fatto meglio a non dirlo, ma è la verità. Lo pensavano tutti. Ora è improbabile che si risposi, quindi si può dire. Vostro padre ha superato i 40, no? Ha 43 anni. Non credevo avesse mai pensato di risposarsi, disse Molly, riferendosi all'idea come a un pericolo che si sia superato senza nemmeno esserne consapevoli. No, non credo, mia cara. A me lui sembra proprio un uomo che voglia rimanere fedele al ricordo di sua moglie. Non dovete badare a ciò che dice lo Squire. È meglio che tu te ne vada se hai intenzione di insegnare a Miss Gibson a essere tanto sleale nei confronti del padrone di casa. Molly andò in salotto con Mrs. Hamley, ma i suoi pensieri non cambiarono insieme alla stanza. Non poteva fare a meno di indugiare sul pericolo che riteneva di aver scampato. Ed era attonita per la propria stupidità, per non aver mai immaginato la possibilità di un secondo matrimonio del padre. Sentì di star rispondendo alle osservazioni di Mrs. Hamley in modo molto insoddisfacente. Ecco, papà, con lo Squire, esclamò ad un tratto. I due stavano attraversando il giardino fiorito, venendo dalle stalle, e il padre si scudisciava gli stivali con l'infrustino per renderli presentabili nel salotto di Mrs. Hamley. Egli appariva così uguale al solito, così casalingo, che vederlo in carne e ossa fu il modo più efficace di disperdere gli spaventosi fantasmi delle seconde nozze che avevano iniziato a tormentare la mente di sua figlia, e la piacevole convinzione che egli non potesse dormire prima di aver verificato come lei se la stesse cavando in quella casa sconosciuta. Entrò nel cuore, anche se il padre le parlò poco e quel poco venne pronunciato in tono scherzoso. Dopo che se ne fu andato, lo Squire si mise a insegnarle a giocare a gribbage. Lei era così felice da prestargli tutta la propria attenzione. Mentre giocavano, egli continuò a chiacchierare, a volte in merito alle carte, altrimenti raccontando le brevi aneddoti che pensava potessero interessarle. E così non conoscete i miei ragazzi neanche di vista? Pensavo di sì, perché a loro piace molto cavalcare fino a Hollingford e so che Roger è stato spesso a prendere i libri in prestito da vostro padre. Roger è un tipo scientifico, Osborne è intelligente, come sua madre. Non mi meraviglierei se pubblicasse un libro un giorno. Non state contando bene, Miss Gibson. Vedete? Potrei imbrogliarvi con tutta la facilità del mondo. E così via. Finché il maggiordomo entrò con sguardo solenne e posizionò un pesante libro di preghiere davanti al padrone, il quale raccolse confusamente e frettolosamente le carte, come se fosse stato sorpreso in un'attività impropria. E allora le domestiche e i servitori marciarono verso di loro per le preghiere. Le finestre erano ancora aperte, la voce del solingo re di quaglie e il grido della civetta fra gli alberi si unirono alle parole pronunciate. Poi a letto e la giornata finì. Molly guardò fuori dalla finestra della sua camera, sporgendosi sul davanzale e odorando la fragranza notturna del caprifoglio. Il buio morbido e vellutato nascondeva ogni cosa lontana da lei, eppure lei era cosciente di quelle presenze, come se le vedesse. Penso che sarò molto felice qui. Era nei suoi pensieri quando alla fine si voltò e incominciò a prepararsi per dormire. Non molto dopo le parole dello squire sulle seconde nozze di suo padre le tornarono in mente e guastarono la dolce pace delle sue ultime riflessioni. Chi avrebbe potuto sposare? Si chiese. Miss Eyre? Miss Browning? Miss Phoebe? Miss Goodenough? Una alla volta, ognuna di loro fu scartata con ragioni sufficienti, ma la domanda insoddisfatta le scottava in testa e le tese agguati che disturbarono i suoi sogni. Mrs. Hamley non scese per colazione e Molly scoprì, un po' costernata, di doverla consumare a tu per tu con lo squire. In quella prima mattina egli mise da parte i giornali. L'uno era un vecchio quotidiano conservatore che riportava tutte le notizie locali e della contea, ed era per lui il più interessante. L'altro era il Morning Chronicle, che lo squire definiva la sua dose di amarezza e che gli cavava molte espressioni forti e qualche imprecazione tollerabilmente mordace. Quel giorno però egli era compito, come poi spiegò a Molly, ed era risoluto a cercare un argomento di conversazione. Poteva parlare della moglie, dei figli, della proprietà e delle tecniche agricole, dei suoi fittavoli e della cattiva amministrazione delle ultime elezioni della contea. Gli interessi di Molly erano il padre, Miss Eyre, il suo giardino e il suo pony. Al secondo posto c'erano le signorine Browning, la Kemnor Charity School, il nuovo vestito che doveva arrivare dal negozio di Miss Rose e in mezzo a tutte queste idee la grande domanda. Chi è che la gente pensava papà potesse sposare? Continuava a salirle alle labbra, come un fastidioso fantoccio a molla che salta fuori dalla scatola. Al momento, tuttavia, il coperchio veniva schiacciato contro l'intruso ogni volta che costui faceva capolino fra i suoi denti. Molly e lo squire furono molto cortesi l'un con l'altra durante il pasto e questo fu un poco noioso per entrambi. Quando ebbero finito di mangiare, l'uomo si ritirò nel suo studio a leggere i giornali ancora intatti. Era usanza chiamare studio la stanza in cui Squire Hamley teneva i suoi soprabiti, gli stivali, le leghette, i suoi vari bastoni da passeggio, il suo preferito, quello con il sarchiello, la sua pistola e le sue canne da pesca. C'erano uno scrittoio e una poltrona triangolare, ma non si vedevano libri. La maggior parte di questi era stipata in una stanza ampia e odorante di muffa, in un'area della casa non frequentata. Sempre così deserta che la cameriera spesso dimenticava di aprire gli scuri delle finestre, che si affacciavano in una parte del parco dove abbondavano arbusti lussureggianti. Invero, nella stanza della servitù correva voce che al tempo del vecchio squire, quello che era stato bocciato al college, le finestre della biblioteca fossero state coperte da pannelli per evitare di pagarci sopra le tasse. E quando i giovani signori erano a casa, la cameriera, senza che le venisse ordinato, tornava a occuparsi regolarmente della stanza, apriva i vetri e accendeva il fuoco ogni giorno e spolverava i volumi finemente rilegati che costituivano davvero una notevole collezione della letteratura classica della metà del secolo scorso. Tutti i libri che erano stati acquistati a partire da allora erano disposti in piccole librerie collocate tra le coppie di finestre del salotto e al piano di sopra, nel salottino privato di Mrs. Hamley. Quelli al piano inferiore erano sufficienti a impegnare il tempo di Molly. Infatti era così assorbita in uno dei romanzi di Sir Walter Scott che sobbalzò, come se le avessero sparato, quando circa un'ora dopo colazione, lo squire, avanzando lungo il sentiero di Gaia, si avvicinò a una delle finestre e la chiamò per chiederle se volesse uscire e fare un giro del giardino e dei campi insieme a lui. Le mattinate qui devono essere un po' noiose per te, ragazza mia. Statene tutta sola a guardare solo libri. Ma vedi, la signora desidera stare quieta prima di mezzogiorno. Aveva avvertito tuo padre e l'ho fatto anch'io. Mi dispiace lo stesso vederti seduta per terra, sola, soletta in salotto. Molly era nel pieno della sposa di Lammermoor e sarebbe rimasta volentieri in casa a finirlo, ma apprezzò comunque la gentilezza dello squire. Entrarono e uscirono dalle serre antiche, percorsero prati impeccabili. L'uomo aprì con la chiave l'ampio giardino cinto da mura della cucina e andò a dar ordine ai giardinieri. E per tutto il tempo Molly lo seguì come un cagnolino, con la testa piena di Ravenswood e di Lucy Ashton. A poco, ogni luogo vicino alla casa fu ispezionato e regolamentato, e lo squire fu maggiormente libero di prestare attenzione alla sua amica, mentre attraversavano il boschetto che separava i giardini dai campi adiacenti. Anche Molly distorse i propri pensieri dal XVII secolo e in un modo o nell'altro quella domanda, che tanto l'aveva tormentata in precedenza, le uscì dalle labbra prima che se ne accorgesse. Un vero e proprio impromptu. Chi, secondo la gente, avrebbe potuto sposare papà? Quella volta, tanto tempo fa, che la mamma morì. Abbassò la voce, dolcemente, quando pronunciò le ultime parole. Lo squire si girò verso di lei e la guardò in viso, senza sapere perché. Era molto serio, un po' pallido, ma quegli occhi fermi sembravano esigere una qualche risposta. Egli fischiò come per prendere tempo, non che avesse qualcosa di preciso da dire, perché nessuno aveva mai avuto motivo di legare il nome di Mr. Gibson con quello di una donna conosciuta. Si era trattato solo di una vaga congettura che era stata avanzata sulla base delle probabilità, un giovane vedovo con una figlia piccola. Non ho mai sentito di nessuna. Il suo nome non è mai stato associato a quello di nessuna. Era solo naturale che si risposasse. Potrebbe farlo ancora, per quanto ne so, e non credo nemmeno che sarebbe una cattiva mossa. Gliel'ho detto la penultima volta che è stato qui. E cosa ha risposto? Chiese Molly senza fiato. Oh, ha semplicemente sorriso e non ha detto nulla. Non dovresti prendere le parole così sul serio, mia cara. È molto probabile che non penserà mai a risposarsi e se lo facesse sarebbe un'ottima cosa, sia per lui che per te. Molly borbottò qualcosa quasi tra sé e sé, ma lo squire avrebbe potuto sentire se avesse voluto. Invece decise saggiamente di sviare il discorso. Guarda, le disse, quando d'un tratto si trovarono al laghetto o stagno. Nel mezzo dell'acqua cristallina c'era una piccola isola su cui crescevano alti alberi, scuri abeti scozzesi al centro e luccicanti salici d'argento presso il margine dell'acqua. Uno di questi giorni dobbiamo portartici con il barchino. Non mi va molto di usare la barca in questo periodo dell'anno perché gli uccellini sono ancora nei loro nidi tra le canne e le piante acquatiche. Ma ci andremo. Ci sono folaghe e tuffetti. Oh, guardate, un cigno! Sì, qui ne abbiamo due coppie. E fra quegli alberi laggiù ci sono una colonia di cornacchie e una di aironi. Gli aironi ormai dovrebbero essere qui perché partono per i mari in agosto, ma non ho visto ancora nessuno. Ferma! Quello non è un airone. Quello sulla pietra con il collo lungo piegato all'ingiù a guardare l'acqua? Sì, penso di sì, non ne ho mai visto uno, solo nelle illustrazioni. Gli aironi e le cornacchie sono sempre in guerra e non va bene per chi vive in stretta prossimità. Se entrambi gli aironi lasciano il nido che stanno costruendo, arrivano le cornacchie e lo fanno a pezzi. Una volta Roger mi ha mostrato un esemplare di airone tutto solo, con uno stormo di cornacchie a seguito, che non avevano certo intenzioni amichevoli, non c'è dubbio. Roger conosce bene le scienze naturali e a volte scopre delle cose molto bizzarre. Se fosse stato qui durante la nostra passeggiata, sarebbe sparito una dozzina di volte. I suoi occhi vagano sempre in giro e lui vede 20 cose dove io non ne vedo una. Pensa, una volta è scattato verso il bosco perché aveva visto qualcosa a 15 yard di distanza, forse una specie di pianta, che mi diceva essere molto rara. Anche se io sostenevo di vederla a ogni svolta della foresta. E se ci imbattevamo in una cosa come questa, disse, toccando con il bastone una delicata ragnatela sopra una foglia, beh, poteva dire quale insetto, quale ragno l'avesse creata, se viveva nel legno d'abete marcio o nelle fessure della corteccia sana, o nelle profondità del suolo, o nell'alto dei cieli, o chissà dove. È un peccato che a Cambridge non ci si possa laureare in scienze naturali. Se così fosse, Roger sarebbe un candidato sicuro. Mr. Osborne Harmley è molto intelligente, vero? Chiese Molly timidamente. Oh sì, Osborne è una specie di genio. Sua madre ha grandi ambizioni per lui, io stesso ne sono piuttosto orgoglioso. Se le cose vanno per il verso giusto, si guadagnerà una posizione al Trinity. Come dicevo ieri alla riunione dei magistrati, se non mi sbaglio di grosso, ho un figlio che farà parlare di sé a Cambridge. Ora, non è uno strano scherzo della natura? Proseguì lo squire, rivolgendo a Molly il suo viso onesto, come se stesse per impartirle un'idea nuova. Che io, un Hamley, di Hamley, erede di una famiglia che risale a non si sa quando, dicono all'eptarchia. Quando risale l'eptarchia? Non lo so, rispose Molly, turbata nel venire apostrofata in quel modo. Beh, un po' prima di re Alfred, perché costui era il re dell'intera Inghilterra, sai? Ma come stavo dicendo, eccomi qua. Appartenente a una delle stirpi più nobili e antiche d'Inghilterra. A dubitare che un forestiero che mi osservi mi prenda per un gentiluomo, con la mia faccia rossa, le mie mani, i miei piedi grandi, la mia figura robusta, 14 stone e non meno di 12 neanche quando ero giovane. E poi c'è Osborne, che ha preso dalla madre, la quale, che Dio la benedica, non sa niente neanche del suo bisnonno. Osborne ha un viso delicato, femminile, è esile e ha le mani e i piedi piccoli come quelli di una donna. Ha preso dalla mia signora, che, come ho detto, non sa chi fosse suo nonno. Ora, Roger è come me, è un Hamley di Hamley e nessuno che lo incontri per la strada potrebbe dire che quel ragazzo goffo, rosso e con le ossa robuste sia di sangue nobile. Invece tutti quei Kemnor su cui voi fate tanto chiasso a Hollingford sono roba di ieri. L'altro giorno parlavo con la mia signora della possibilità che Osborne sposi una figlia di Lord Hollingford, ben inteso se avesse una figlia. Pare che abbia solo maschi. Io non sono sicuro che acconsentirei. Davvero? Non ne sono sicuro. Perché, vedi, Osborne riceverà un'istruzione di prim'ordine e la sua famiglia risale all'epoca dell'eptarchia, mentre io sarei proprio contento di sapere dove fossero i Kenmore al tempo della regina Anna. Continuò a camminare, riflettendo sull'opportunità di dare il proprio consenso a questo matrimonio impossibile. E dopo un po', quando Molly si era del tutto scordata dell'argomento a cui egli alludeva, se ne uscì con: No, sono certo che dovrebbe puntare più in alto. Quindi forse è un bene che Lord Hollingford abbia solo figli maschi. Poco dopo egli ringraziò Molly per la sua compagnia, con una cortesia d'altri tempi, e le disse che pensava che ormai la signora si fosse alzata e vestita e che sarebbe stata lieta di avere con sé la loro giovane amica. Indicò la casa purpurea, quella facciata di pietra, così la si vedeva da quella distanza attraverso gli alberi, e la osservò con fare protettivo mentre lei proseguiva lungo il sentiero fra i campi. È proprio simpatica questa giovane Gibson, si disse. Ma quanta impressione le ha fatto l'idea che il dottore si risposi? Sarà meglio stare allerta prima di parlare in sua presenza. Pensare che non abbia mai immaginato la possibilità di avere una matrigna. Non c'è dubbio, una matrigna per una fanciulla è ben altra cosa che una seconda moglie per un uomo. Capitolo 7. Presagi di pericoli d'amore. Se Squire Hamley non era stato in grado di rivelare a Molly che fosse stata ritenuta una possibile seconda moglie di suo padre, la sorte stava contemporaneamente preparando una risposta di un certo valore per le domande e la curiosità della ragazza. Ma la sorte è una donnaccia scaltra e sfacciata che imbastisce i suoi progetti senza farsi notare. Come un uccello si costruisce il nido. E quasi con lo stesso genere di trascurate inezie. Il primo evento insignificante fu la protesta che Jenny, la cuoca di Mr. Gibson, decise di esprimere contro il licenziamento di Betia. Betia era una sua lontana parente, la sua protetta, e Jenny scelse di dichiarare che era Mr. Cox, il tentatore, a dover essere mandato a fare i bagagli e non Betia, la tentata, la vittima. Questo punto di vista era quasi tanto plausibile da far sentire a Mr. Gibson di aver agito ingiustamente. Tuttavia, egli si era preoccupato di trovare a Betia un altro posto, tanto buono come era quello che aveva occupato a casa sua. Jenny, ciò non di meno, volle dare un preavviso e sebbene Mr. Gibson sapesse bene per esperienza che i suoi preavvisi erano parole e non fatti, detestava il disagio, l'incertezza, tutta la spiacevolezza di incontrare in casa propria, a qualsiasi ora del giorno, una donna che portava chiaramente stampate sul volto, come era il caso di Jenny, la lagnanza e l'offesa. Proprio nel pieno di questo piccolo problema domestico ne capitò un altro e di più seria importanza. Durante l'assenza di Molly, che da principio doveva durare un paio di settimane, Miss Eyre si era recata al mare con l'anziana madre e i nipoti orfani. Dopo che erano trascorsi circa 10 giorni, Mr. Gibson ricevette dall'istitutrice una lettera molto ben scritta, lessicalmente elegante, piegata mirabilmente e meravigliosamente sigillata. Il nipote più grande si era ammalato di scarlattina e con ogni probabilità i più piccoli ne sarebbero stati contagiati. Tutto questo era molto doloroso per la povera Miss Eyre, la spesa aggiuntiva, l'ansia, la lunga assenza da casa che la malattia implicava. Ma ella non vergò una sola parola di disturbo personale. Si scusò semplicemente e con umile sincerità per non essere in grado di tornare a tempo debito al proprio incarico nella famiglia Gibson, aggiungendo mitemente che forse era un bene, perché Miss Molly non aveva avuto la scarlattina e anche se Miss Eyre avesse potuto lasciare gli orfani e tornare al proprio lavoro, non sarebbe stata una mossa sicura e prudente. «Certo che no!» commentò Mr. Gibson, stracciando la lettera in due e gettandola nel fuoco, dove si ridusse presto in cenere. «Vorrei avere una casetta da 5 sterline l'anno e neanche l'ombra di una donna nel giro di 10 miglia!» Allora avrei un po' di pace. Evidentemente si era dimenticato della capacità di Mr. Cox di far danno, ma in realtà egli avrebbe potuto risalire quel danno all'inconsapevole Molly. L'ingresso della cuoca martire, venuta a portar via la colazione, cosa che annunciò con un pesante sospiro, risvegliò Mr. Gibson dai pensieri all'azione. Molly deve restare a Hamley un altro po', decise. L'hanno invitata così spesso e ora penso che ne avranno abbastanza di lei. Ma non posso riaverla qui proprio adesso. Perciò la cosa migliore che possa fare per lei è lasciarla dove si trova. Mrs. Hamley sembra volerle un gran bene e la bimba ha un'aria felice e più sana. In ogni caso farò un salto a Hamley quest'oggi e vedrò come va. Trovò Mrs. Hamley distesa su un sofà, collocata all'ombra dell'imponente cedro sul prato. Molly le volteggiava intorno e si occupava del giardino secondo le sue istruzioni. Legava ai lunghi steli verderame dei brillanti garofani in boccio e tagliava le rose appassite. «Oh, ecco papà!» strillò con gioia, vedendola avvicinarsi a cavallo alla bianca palizzata che separava il prato rasato e il giardino fiorito e ordinato dal parco davanti alla casa. «Venite, venite qui! Passate dalla porta finestra del salotto!» invitò Mrs. Hamley sollevandosi sul gomito. Dobbiamo mostrarvi un arbusto di rose che Molly ha potato tutto da sola. Ne siamo entrambe così orgogliose. Così Mr. Gibson andò alle stalle, lasciò là il cavallo e si fece strada attraverso la casa fino al salottino estivo, all'aria aperta sotto il cedro, dove erano state disposte delle sedie, un tavolo, dei libri e del lavoro ingarbugliato. Quasi gli dispiaceva chiedere di prolungare la permanenza di Molly. Dunque decise di ingoiare subito la marapillola e poi godersi la piacevolezza di quella giornata deliziosa, la dolce tranquillità e l'aria densa di profumi di mormorii. Molly gli venne accanto e gli mise una mano sulla spalla. Egli sedette di fronte a Mrs. Hamley. «Oggi sono venuta a chiedervi un favore», esordì. «Accordato ancora prima che diciate di cosa si tratta. Non sono una donna audace?» Egli sorrise e si inchinò, ma continuò dritto con ciò che aveva da dire. Miss Eyre, che è stata là, istitutrice di Molly, penso di doverla chiamare così per molti anni. Mi scrive oggi che uno dei nipotini che ha portato con sé a Newport, mentre Molly si trovava qui, ha preso la scarlattina. indovino la vostra richiesta. Parlo io prima che lo facciate voi. Vi prego di permettere alla cara piccola Molly di trattenersi. Di certo Miss Eyre non potrà tornare da voi e di certo Molly deve rimanere qui. Grazie, grazie davvero. Era questo che volevo chiedere. La mano di Molly scivolò nella sua e si riparò nella sua stretta ferma e salda. Papà, Mrs. Hamley, so che entrambi mi capirete, ma non posso andare a casa. Sono molto, molto felice qui, ma... Oh, papà, penso che preferirei stare a casa con te. Uno spiacevole sospetto balenò nella mente dell'uomo. La fece voltare e scrutò con insistenza il suo viso innocente. Lei arrossì a questo esame insolito, ma i suoi occhi dolci erano colmi di stupore piuttosto che di un qualsiasi altro sentimento che egli temette di trovarci. Per un attimo si era chiesto se l'amore del giovane Mr. Cox dalla testa rossa non avesse trovato corrispondenza nel cuore della figlia. Ora però egli fu molto chiaro. Molly, tanto per cominciare sei scortese. Non so davvero come potrai far pace con Mrs. Hamley. E poi pensi di essere più saggia di me o che io non ti vorrei a casa se le circostanze fossero normali? Resta dove sei e mostrati grata. Molly lo conosceva abbastanza da essere certa che il prolungamento della visita a Hamley era ormai per lui una decisione presa. E poi si sentì rimordere dal senso di ingratitudine. Lasciò il padre e andò da Mrs. Hamley, si chinò e la baciò, ma non disse nulla. La donna le prese la mano e le fece spazio sul divano. Avevo intenzione di chiedere che Molly si fermasse di più la prossima volta che vi avessi visto, Mr. Gibson. Siamo tanto amiche, non è vero, Molly? E ora che questo bravo nipotino di Miss Eyre vorrei che fosse frustato, commentò Mr. Gibson. Ci ha fornito una ragione così valida, terrò Molly con me per un'appropriata lunga visita. Potete venire a trovarla molto spesso. Sapete che per voi c'è sempre una stanza qui. E non vedo perché la mattina non dovreste partire per i vostri giri direttamente da Hamley invece che da Hollingford. Grazie, se non foste stata così gentile nei confronti della mia figliola, sarei tentato di dire qualcosa di sgradevole in merito alla vostra proposta. Ditelo, vi prego. Non starete meglio finché non l'avrete detto, lo so. Mrs. Hamley ha scoperto da che abbia preso la mia scortesia, osservò Molly trionfante. È una qualità ereditaria. Stavo per dire che il vostro invito a pernottare a Hamley è proprio un'idea da donna, molto gentile, ma del tutto insensata. Come potrebbero mai trovarmi i miei pazienti a 7 miglia da casa mia? Di certo manderebbero a chiamare un altro medico e in un mese io sarei in rovina. Non potrebbero mandare a chiamarvi qui? Un messaggero costa molto poco. Immaginatevi il vecchio Goody Hanbury che si trascina fino al mio ambulatorio, un gemito a ogni passo, e che lì viene invitato a camminare per altre 7 miglia. O consideriamo l'altro estremo della società. Non credo che il sofisticato servitore di Lady Camlor mi ringrazierebbe del fatto di dover cavalcare fino a Hamley ogni volta che la sua signora ha bisogno di me. Bene, bene, mi arrendo. Sono una donna. Molly. Tu sei una donna. Vai a chiedere un po' di fragole e panna per questo tuo papà. Queste umili attività ricadono nell'ambito femminile. Fragole e panna sono molto gentili, ma del tutto insensate, perché gli procureranno un terribile attacco di indigestione. Vi prego, parlate per voi, Mrs. Hamley, replicò Molly allegramente. Ieri ne ho mangiate un cesto pieno e lo squire in persona è andato in latteria a prendermi un'enorme ciotola di panna quando mi ha trovata impegnata. E oggi sto benissimo e l'indigestione non mi ha nemmeno sfiorata. È una brava ragazza, disse il padre quando danzò via e non poté sentirlo. Le sue parole non erano quasi una domanda, perché egli era talmente certo della replica. Nei suoi occhi c'era un misto di tenerezza e di fiducia mentre aspettava la risposta, che venne immediatamente. È un tesoro. Non so dirvi quanto lo squire e io le vogliamo bene, entrambi. Sono così felice all'idea che non se ne andrà per un bel po' di tempo. La prima cosa che ho pensato stamani quando mi sono svegliata è stata che presto avrei dovuto restituirla, a meno che non fossi riuscita a convincervi a lasciarmela ancora un po'. E ora lei deve restare almeno 2 mesi. Era verissimo che lo squire aveva iniziato a voler molto bene a Molly. Il fascino di una ragazza che danzava e cantava indistinte canzoni per casa e il giardino era una novità indescrivibile per lui. E poi era così generosa e così saggia, disposta sia a parlare che ad ascoltare al momento giusto. Mrs. Hamley aveva proprio ragione a parlare del suo affetto per lei. Però, o scelse il momento sbagliato per annunciare il prolungamento della visita, o egli era in preda a uno dei suoi tipici attacchi di malumore che generalmente tentava di reprimere in presenza della moglie. Insomma, l'uomo accolse la notizia con uno stato d'animo decisamente poco accomodante. Trattenersi? È stato Gibson a chiederlo. Sì, non so cosa ne sarebbe altrimenti di lei. Mi sei ire via e tutto il resto. Per una ragazza senza la mamma come lei è una condizione molto imbarazzante ritrovarsi a gestire una famiglia che comprende anche due giovanotti. Questo è il punto di vista di Gibson. Avrebbe dovuto pensarci prima di prendersi degli allievi o apprendisti o come altro li definisce. Mio caro signore, beh, pensavo ne sareste stato lieto quanto ero io, quanto so.